Napoli non c'è sto mare, non c'è sto sole. Se copri i ricci quando senti botte di pistola. A Napoli non c'è stanno re, c'è stanno santa. A domenica sulla marona ti accompagna. Venga la città, si mette in posa per una foto. Venga a Rovena a pigliato quando qualcosa. E se non c'è sta quando si accira nei guagliuna. Napoli non c'agna, a Napoli non c'ove. O marciapiede tenne sempre un uomo con corona. Che ci ha perso la vita a coppa, scagna la vita a morte. Quando ama con corona tiene sempre un ricordo. Che è l'unico modo per dare ancora la vita a morte. Come fa freddo, qualcosa oggi non va. Sa chi perde sangue, intero si fa pozzo sangue. Io ti voglio amare come faccio con mamma. Però tu sei severo, come ero con mio papà. E mi sa poter educare, yeah. Vado ce le se faccio unire, non mi far un mi. Vado a padre casa, fa sempre più vecchio. Io volevo volare, e mo non sa ci atterrà. Vado cielo se faccio grigio e faccio freddo. Ma su cielo non muore cancio fa parlare con te. Vado a mamma ma capo me se faccio bella. Io volevo volare, se potesse piangere facesse meno male. Sono tipo che si siete la montagna costruisce l'ali in volo. Non atterra proprio. O destino mi stava scritto in dei diari. La vita cade fotto, senza preliminare. Quando i prete erano pinnole per quando ne mangiava. Ma sono come Icaro, sono disposto a morire. Passagli sempre più in alto. Non vedo credere, ma che sordi non fanno più alto. Fanno più basso chi ti sta guardando. O gore, provare l'ora per se difendere. A pioggia è fisiologica, pulizia in terra. Non vecchio essere giovane e viceversa. A vita si pure long, rimani impresso. Non so c'è formuletta quando prega. Perché sono diverse tutti i giorni e cose che non tengo. Quando stavo a casa mamma era cavera all'ingresso. Mo tengo predermesse e non mi scalfo per niente. La vita mi ha premiato, yeah. Vado ce le se faccio unire, non mi farò mi. Vado a padre casa, fa sempre più vecchio. Io volevo volare, e mo non so ci atterrà. Vado ce le se faccio grigio e faccio freddo. Ma su ce le non muore cancio fa. Cheers.